Agostino guidava male. Non era uno bravo in moto. Era di quelli che avrebbe voluto essere bravo, ma faceva solo della gran polvere. Ecco perché è scivolato sulla ghiaia ed è finito in un fosso, rompendosi una gamba e un braccio. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Nel tempo che ho libero, e ne ho di tempo libero, mi è avvenuto di rimeditare il mio caso e di domandarmi come sarà giudicato da quel mondo della scienza al quale non credo più di appartenere. Non credo che la pratica della scienza possa andare disgiunta dal coraggio. Nella mia vita di scienziato ho avuto una fortuna senza pari, quella di vedere l'astronomia dilagare nelle pubbliche piazze. In circostanze così straordinarie, la fermezza di un uomo poteva produrre grandissimi rivolgimenti. Se io avessi resistito, i naturalisti avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici è il giuramento di Ippocrate. Il voto solenne di far uso della scienza ad esclusivo vantaggio dell'umanità. Invece, così stando le cose, il massimo in cui si può sperare è una progenie di gnomi inventivi, pronti a farsi assoldare per qualsiasi scopo. Mi sono anche convinto di non avere mai corso dei rischi gravi. Per alcuni anni ebbi la forza di una pubblica autorità e misi la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero, o non la usassero, o ne abusassero, a seconda dei loro fini. Io ho tradito la mia professione e quando un uomo ha fatto ciò che ho fatto io, la sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza. Oggi ho deciso di aprire con questo pezzo che è tratto da Vita di Galileo di Bertolt Brecht, proprio perché oggi si parla di disobbedienza e lui ci è sembrato una delle persone che ha portato il segno, ma soprattutto che rappresenta quello che disobbedire in maniera utile. Avete presente quando nella vostra vita è capitato di dire di no a una regola e fare tutt'altro, e quella cosa lì in qualche modo vi è servita, un po' perché vi ha fatto crescere, un po' perché vi ha reso una persona magari non migliore, però una persona diversa, perché se non aveste fatto quella cosa, se non aveste violato quella regola, non avreste capito delle cose. Ecco perché oggi parliamo di disobbedire. 800240024 349-238-6666. Che sia stata una disobbedienza da figli nei confronti dei genitori, oppure da lavoratori nei confronti dei propri capi, da seguaci di una religione nei confronti dei dogmi o dei dettami di quella religione, da cittadini nei confronti delle regole. Ecco, e qua Ale, e via con la disobbedienza civile. Oppure anche semplicemente da persone che hanno deciso di dire di no ad una regola che era implicita, in un gruppo, ad esempio, in un gruppo di amici che avete deciso di non fare o di fare una cosa che invece gli altri avevano deciso che fosse l'opposto. 80024 0024 349 238 6666. Oggi tiro un po' le fila di questa storia, quella che vi ho raccontato in questi giorni, cioè la storia mia, di Claudio, di Giorgio, di Agostino e di Gaia. È stata una storia in parte dolorosa, anche sia da raccontare sia da rivivere, eppure questo incontro a me comunque è servito. Ecco perché oggi voglio chiudere un pochettino con la storia di Agostino e con la mia storia, con questa parte della mia storia. Vi leggo invece qualche messaggio che è arrivato sul profilo Facebook, è Matteo Caccia, io sono qui, a proposito di disobbedienza. Arianna mi scrive: fra le cose che da bambina detestavo di più c'era il sonnellino del pomeriggio e le passeggiate che piacevano tanto agli adulti. Un'estate di tantissimi anni fa, mio fratello ed io siamo stati spediti in un Kinderheim svizzero a trascorrere un mese che si è impresso per sempre nella mia mente. Avevo 5 anni, mio fratello 4. Un mese che ricordo con una certa inquietudine, per una serie di ragioni che sarebbe troppo lunga elencare. Ma la cosa che ricordo con più piacere è di avere disertato la passeggiata pomeridiana delle 4 ed aver convinto altri 3 bambini a disertarla con me. Ricordo ancora oggi il sottile brivido di piacere e di terrore mentre nascosti dietro ad una finestra al primo piano del Kinderheim abbiamo visto sfilare tutti gli altri bambini in fila per due, mano nella mano, che andavano a fare la solita passeggiata noiosa delle 4. Naturalmente non l'abbiamo passata liscia, ma questa è un'altra storia. 800240024 349 238 6666. Prima di andare avanti e di leggervi qualche altro messaggio legato all'avere disobbedito e poi raccontarvi la mia storia, io volevo ringraziare Marina, E qualche giorno fa, quando parlavo dei giorni della merla, mi aveva mandato prima un messaggio dicendomi che i giorni della merla erano il 31, l'1 e il 1 di febbraio. E poi mi ha mandato una sorta di calendario dell'avvento su giorni della merla, che lei definiva la ghirlanda, che è una cosa che le ha insegnato sua nonna, e che più o meno fa così, che divide gennaio in una sorta di mese chiave per capire come andrà l'anno. E mi dice così: gennaio ha una fase crescente, cioè i primi 12 giorni del mese di gennaio corrispondono a tutti i mesi dell'anno, cioè il primo gennaio, il secondo febbraio, il terzo marzo e così via. Poi c'è una fase calante, che va dal 13 al 24, in cui si va al contrario: il 13 di gennaio a dicembre, il 14 a novembre, il 15 ottobre e via così. In queste due fasi, osservando il tempo atmosferico delle due date corrispondenti ad ogni mese, si dovrebbe capire come sarà l'anno: gennaio freddo, febbraio nebbioso, eccetera eccetera. Poi il 25 gennaio è la versione di San Paolo, ed è un giorno particolare, non si può capire niente. Poi ci sono il 26, 27, 28 e 29, che sono primavera, estate, autunno e inverno. E poi finalmente arrivano i giorni della merla, il 30, 31 e l'1 di febbraio. Poi mi scrive una cosa che non capisco, che mi dice: due li ho e uno lo procurerò. Così concludeva la nonna quando gli faceva questa roba della ghirlanda. E poi veramente questa non lo so. Infatti 24 più 1 più 4 più 3 fa 32. Quindi gennaio ha dovuto chiedere un giorno in prestito a febbraio per i giorni della merla. Qui siamo nel delirio puro della ghirlanda. Della ghirlanda? Aspetta, la ghirlanda, sì, sicuramente le persone sopra i 60 anni che stanno ascoltando ne sapranno qualcosa, magari anche quelle semplicemente che c'hanno 20, ma gliel'hanno raccontata prima. 800240024, vi leggo un altro messaggio che mi è arrivato oggi a proposito di disobbedienza. Pascal: la prima cosa che mi salta in mente a pensare di quando ho disobbedito è quando a 15 anni dovevo andare dall'amorosa col mio motorino nuovo, un 50. Purtroppo però avevo combinato qualcosa che non ricordo e i miei mi misero in castigo. Tagliai da cima a fondo la rete di recinzione di casa sul retro e me ne andai mentre i miei erano al lavoro. La sera la richiusi tutta col fil di ferro. Ovviamente se ne accorsero il giorno dopo, però è stato troppo bello avergliela fatta, almeno per quella sera. Sotto il naso. 349-238-6666 per i messaggi. È arrivato il momento di raccontarvi un pochettino della mia disobbedienza, ma soprattutto del mio senso di colpa. Avete presente, no? Quando una cosa non è colpa tua, però tu senti che non è vero. Cioè che tu avresti potuto evitare quella cosa brutta lì che sta accadendo o che è accaduta. Un po' come quando da piccolo ti capitava di prendere uno schiaffo da uno più grande, no? Uno a scuola. E non volevi dirlo a nessuno, perché ti sembrava di aver fatto qualcosa di male. Avete presente? Ecco, la vita è così. La nostra vita, almeno. Noi siamo abituati, fin dalla prima ora di catechismo, fin dalla prima predica messa, che noi siamo nati col peccato originale e che non ce ne potremo mai liberare, se non dopo che saremo giudicati al cospetto di Dio e saremo inviati all'inferno, al purgatorio o al paradiso, a seconda dei nostri comportamenti terreni. Il peccato originale è il fatto che Adamo ed Eva hanno fondamentalmente fatto sesso o mangiato la mela, che poi per la Bibbia pare sia la stessa cosa. E siccome questi due hanno disobbedito al Signore, che aveva detto che loro potevano fare ciò che volevano nel paradiso tranne mangiare la mela, sono diventati mortali e hanno avuto un sacco di problemi, compreso il dolore durante il parto. Che tra l'altro a me viene da pensare che senza quella mela mangiata, noi non saremmo qui. Perché non ci sarebbe stato nessun parto, doloroso, con l'epidurale o qualunque cosa sia. Quindi io, alla fine, nel dubbio, visto che tutto sommato sono contento di esserci, ogni tanto faccio una cosa. Ogni tanto dedico una mela ad Adamo ed Eva, che hanno fatto esattamente quello che avrebbero fatto Ulisse, Leonardo da Vinci, Galileo, appunto, o Cristoforo Colombo. Insomma, gente che in fondo ha fatto una cosa, gente che ha disobbedito. Loro hanno deciso che le regole scritte fino ad allora forse erano da rivedere e hanno scoperto cose. Insomma, Adamo ed Eva secondo me rappresentano tutto ciò che noi veneriamo come qualità dell'essere umano. A me quello della mela comunque è sempre sembrato un trucchetto di basso livello. Insomma, lo sanno tutti che se ti dicono di non fare una cosa, la prima domanda che ti fai fin da bambino è: come mai quella cosa è diventata all'improvviso così interessante? E lo doveva sapere bene soprattutto lui, no? Che quei due lì li aveva appena costruiti con la creta. Cioè uno con la creta e l'altro con la costola, però. Attenzione, però vorrei che fosse chiaro, questo non ha a che fare con la religione, perché io non mi occupo di cose di cui non posso dire nulla. Ho studiato Wittgenstein al liceo e me ne sono fatto una ragione. Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. No, questa è altro, questa è proprio vita quotidiana. Questo è vivere sapendo che, e te lo dicono da bambino, per cui ci credi senza nessun dubbio, che anche solo per essere venuto al mondo, tu hai fatto qualcosa che non va. Che devi pagare per gli errori che hanno commesso quelli prima di te. Che esistere, in fondo, è una colpa. E se commetti degli altri peccati, come ad esempio desiderare la donna da altri, non fai che aggravare la tua condizione e che prima o poi la pagherai. E che c'è qualcuno che sa sempre tutto quello che stai facendo. Non scagliate pietre. Lo so che siete tutti peccatori. Ed è normale, perché siamo adulti. Ma i bambini, però, quelli piccoli, quelli non dovrebbero sentirsi così. It's good enough for me. I was good enough for Billy Burroughs. I was good enough for Billy Burroughs. I was good enough for Billy Burroughs. It's good enough for me. 20 anni fa. 20 anni fa, un pomeriggio d'estate, mentre Agostino era in giro col suo motorino senza casco, io, Giorgio, Claudio e Gaia abbiamo giocato al gioco della bottiglia. Gaia ha baciato Claudio come punizione e Agostino, che nel frattempo era tornato, li ha visti. Noi ci sentivamo già in colpa per avere pensato alla parola bottiglia, figuriamoci quando abbiamo visto la rabbia negli occhi del nostro amico, quello più grande, quello più sveglio e quello anche più rancoroso. E quando abbiamo visto il sorriso di Gaia trasformarsi in una lacrima, e abbiamo sentito salire sul motorino per andare via da noi, rompendo quell'equilibrio perfetto di noi cinque, sempre uniti, sempre insieme, contro tutti, sempre in guerra ma vicini, sempre amici. Agostino guidava male, non era uno bravo in moto, era di quelli che avrebbe voluto essere bravo, ma faceva solo della gran polvere. Ecco perché è scivolato sulla ghiaia ed è finito in un fosso rompendosi una gamba e un braccio. Quando siamo andati a trovarlo, il giorno dopo eravamo tutti sicuri che fosse colpa nostra. Fosse colpa nostra che lui fosse lì. Gaia non ce la facevano vedere, ma noi non ci preoccupavamo perché le femmine sono sempre state per conto loro. E pensavamo che noi non ci portassero lì perché in ospedale si sta in pigiama o mezzi nudi. E nel reparto delle donne non ci vai se sei un maschio. Agostino faceva il gradasso, perché era in quell'età in cui avere un gesso vuol dire essere grandi, essere un duro. Però i genitori piangevano e a parte Agostino eravamo tutti molto tristi. Passavano le settimane, mentre Agostino si aggiustava, Gaia invece rimaneva chissà dove, in qualche stanza dell'ospedale. E nessuno diceva niente. Noi andavamo a scuola e lui, che aveva smesso di andarci, perché ormai diceva che era diventato grande, si sarebbe trovato un lavoro, ci avrebbe salutato. Agostino veniva all'uscita ad aspettarla tutti i giorni, anche se lo sapeva che non c'era. Sapeva che era ancora in ospedale, addormentata con la testa fasciata. Ci avevano detto così. Noi lo capivamo che lui stava male. Lui no. Lui le cose che fanno male fa finta che non esistano. Oppure le prende a pugni. La scuola finì e noi abbiamo smesso di vederci, anche con Claudio e Giorgio. Ognuno convinto di aver causato quel disastro. Sì, il senso di colpa è una fregatura. Però non è colpa nostra. E poi credere di essere la causa di tutti i mali del mondo è una bella presunzione, no? Chi siamo noi per credere di essere così importanti? Sentirsi in colpa, secondo me, a volte è quasi peggio che sentirsi migliori degli altri. Agostino ha continuato ad andare ad aspettare Gaia tutti i giorni, fino a quando a 17 anni se n'è andato via da Novara. Noi abbiamo cambiato scuole, senza dirci mai nulla. Non ci siamo più visti né sentiti. Fino al giorno in cui Gaia, che in 20 anni non si era mossa di un centimetro, ha smesso di respirare. Se il dolore significa che la ferita è ancora aperta e che sei ancora vivo, beh, allora io sono molto vivo. E lo so che non mi libererò mai del senso di colpa perché sono un egocentrico cretino, proprio come Claudio e Giorgio. Agostino è sempre stato più furbo e si è inventato un'altra vita. Però stavolta non so se vorrei fare a cambio con lui. Save 16:23 minuti, Radio 24. Grazie a Viola che mi scrive, visto che avevo questo dubbio se si dicesse disobbedire o disubbidire, vanno bene tutte e due, mi scrive Viola, avrà cercato sul Devotol, immagino, e quindi mi fido di lei. Terza elementare, domenica pomeriggio in castigo per fare i compiti, faccio finta di andare in bagno, scappo dalla finestra e vado con gli amici a fare una partita a calcio. Dopo mezz'ora vidi mio padre a bordo campo, finita la partita non disse niente, tranne che facevo pena a giocare al calcio, forse avrei preferito un calcio nel sedere. 800 24 00 24 349 238 6666. Tommaso, ho disobbedito a mio padre a 16 anni, tanti genitori, decidendo, nonostante il suo categorico divieto, di andare a fare quattro passi da solo per le strade di New York. Sono stato abbordato da un tipo loschissimo che non solo, dopo avermi spinto in un vicoletto, mi ha derubato, ma non contento, non mi lasciava più stare. Ero paralizzato dalla paura, ho pensato che mi avrebbe ammazzato qualcosa di peggio, e allora mi sono messo a correre come mai avevo fatto nella mia vita, e visto che il tipo mi rincorreva, mi sono letteralmente gettato all'interno di un McDonald's. La folla ha fatto desistere il mio aguzzino, io mi sono salvato, sono tornato a casa in taxi e non ho detto nulla a mio padre, ma da allora per un po' ho rigato drittissimo. Cioè, però mi piace il per un po', che non si sa mai. Intanto mi scrivono, vabbè, ancora robe sul giorno della merla, basta perché non ne usciamo più, e poi dei biblisti abbiamo il peccato originale viene tolto con il battesimo, non è scritto da nessuna parte che fosse una mela, il gioco di parole era su malum, che in latino è mela, è male o mela. Questa deve essere la parte di testimone di Geova che abbiamo all'ascolto di Io Sono Qui. Sto disobbedendo a un ritiro patente di 2 anni, non ho niente da perdere e non me ne frega niente, sono diventato fortissimo, sono un criminale? Forse. Beh, non so se tu sia un criminale, però ho la sensazione che se ti beccano, Marco, te lo fanno così. Io ho disobbedito a mio padre, smettendo di credere che io fossi cattiva. Ciao Silvia. E Silvia, e credo che tu abbia fatto molto bene. Andiamo a sentire qualcuno invece che ha disobbedito. Andiamo da Mario di Modena. Pronto Mario? Pronto, sì. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai? Abbastanza bene. Abbastanza bene, bravo Mario. Senti, raccontami in che occasione hai disobbedito e che tipo di disobbedienza era. È stato un qualche anno fa, molti anni fa, e io andavo in una scuola gestita dalle suorine. Scusami, non ho capito. Dalle suore. E quindi in dicembre ci facevano partecipare alla novena, quindi una funzione religiosa, una messa al sacerdote, e a turno facevamo i chierichetti. Certo. Quindi la messa era quando? Era tutti i giorni? Al pomeriggio, sì, tutti i giorni. Poi dopo continuo ad andarci a messa, però tutti i giorni. Certo, no, chiaro, quella era solo per la novena, d'altra parte certo, non si chiamerebbe novena, anche per tenersi marcati a uomo, però in quel caso io e il mio amico ci avevano, pensando di tenerci marcato, ci avevano imposto di fare i chierici, noi abbiamo fatto il chierichetto, suonato la campanella, finito tutto, dovevamo versare dall'ampollina il vino bianco nella bottiglia che conteneva il resto del vino, la bottiglia era a metà e io e il mio amico ce la siamo bevuta tutta, compreso, ne abbiamo lasciato un dito, perché mentre quando io ero lì con la bottiglia a collo arriva il prete, Don Renzo, che poverino non c'è più, è morto, non c'è più, ma era fantastico, sì. Ci ha picchiato tutti e due dietro, eravamo ancora vestiti. Scusami, vi ha picchiato proprio fisicamente? Ci ha dato 2 schiaffi a testa e poi ha detto 20 Ave Maria, dovete dire 20 Ave Maria, perché questa è una cosa tremenda che avete fatto, eh? E poi l'ho detto a casa, che lì poi è cominciato il problema, perché mia madre, essendo una maestra, lei si può immaginare cosa è successo, il fatto che il figlio della maestra avesse bevuto, certo, no. È proprio, ha veramente a che fare col peccato originale tutto ciò, no? Ma il senso di colpa. Ce lo teniamo io e questo mio amico tutta la vita, possiamo fare 2000 battesimi che questo non passa. ho questa sensazione anch'io, Mario, effettivamente. Ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata. Saluto, ciao Mario. Don Renzo deve essere un nome ricorrente. Anch'io avevo un prete in seminario che era il capo del seminario, Don Renzo. Don Cilappa lo soprannominavamo perché gli si creava quando parlava come a Casini, sai che quando parla gli si creano la salivina qua di fianco. Arrivano invece messaggi di gente che è addirittura pentita per non aver disobbedito. Marilena, ciao Matteo, io ho disobbedito troppo poco con gli anni e sono molto cresciuta, ma me ne sono pentita, devo farlo di più. Ciao, io sono qui. poi mi scrive: ho compiuto un atto di lesa maestà verso il mio capo, ho perso il lavoro ma dopo 5 anni ancora so di aver fatto la cosa giusta. Bravo, noi facciamo la cosa giusta, diamo la linea alla borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo di fronte ad un palazzo antico, forse di inizio secolo, 1900 intendo, o fine del secolo prima. Qualcosa di... direi barocco, perché si vede un balcone con quei tipici rigonfiamenti nel ferro del corrimano. È un palazzo, non è una chiesa, però è un palazzo religioso perché c'è una croce in cima. È un po' trasandato, però sembra un posto che potrebbe stare, direi, nel sud Italia. Il cielo è arancione e c'è uno stormo di uccelli che vola. Sono Gaetana Pizzitola, ho 39 anni. La bellezza nascosta del paese che mi ha colto da quando ne ho memoria fino ai 9 anni è il collegio di Chiusa Sclafani. Allora accoglieva figli senza genitori, oggi accoglie genitori anziani senza figli. Io sono qui. Il collegio di Chiusa Sclafani, di Palermo, provincia di Palermo, ok, grazie Viola. Sì, sembrava qualcosa che aveva a che fare con la Sicilia. È uno di quei posti meravigliosi e nascosti che ci sono in giro per il nostro paese. Andate a vedere la foto sul profilo, non sul profilo, perdonatemi, sul sito radio24.it, la pagina Io sono qui. Se invece volete continuare a mandare le foto del luogo in cui siete, in cui state per andare, eravate o vorreste essere, potete inviarle a Io sono qui, @radio24.it, oppure sul profilo Facebook, che è sempre quello, Matteo Caccia, io sono qui. È una fanpage, quindi cliccate su mi piace e tutto vi si aprirà. Emilio: solitamente ho sempre disubbidito, ma c'è stata una volta in cui ho capito che disubbidire era meglio che obbedire. Ero piccolo, avrò avuto sì e no 8 anni, comprai un giocattolo a PlayStation da un venditore per la strada. Quindi quanti anni avrà Emilio? Se ha comprato un giocattolo da PlayStation a 8 anni, ne avrà 17. Tornato a casa mi accorsi che il gioco non partiva. Così ci tornai con mia madre, arrivati al venditore lui si rifiutò di cambiarlo. Così mia mamma mi disse, per farlo spaventare, di andare a chiamare la polizia. Ed io sapevo dove era il commissariato, così ci andai sul serio e parlai al maresciallo e gli dissi tutto quello che stava succedendo. Così arrivai 10 minuti dopo in una volante della polizia, seguito da altri due sul posto, litigio, creando un fuggi-fuggi generale e mettendo un forte imbarazzo in mia madre, che dovette scusarsi con la polizia. E dopo mi sgridò dicendomi: tu non hai mai ubbidito in vita tua, proprio oggi in questo modo dovevi farlo. Da quel giorno ho capito che ubbidire crea dei problemi. Andiamo a sentire invece, visto che prima ne avevo parlato di Enea in particolar modo, che diceva che in terza elementare era scappato dalla scuola. Pronto Enea? Pronto? Pronto, ciao, mi senti? Sì, io ti sento, tu mi senti? Certo. Benissimo, siamo in due allora. Raccontami della tua disobbedienza, Enea. Ma niente, adesso non mi ricordo per che motivo fossi stato messo in castigo. Comunque, il solito domenica pomeriggio, probabilmente non avevo fatto i compiti, e allora niente, mio padre mi costrinse a rimanere in casa per finire il lavoro, sì, che niente, avrei dovuto fare, e solo che avevo appuntamento con gli amichetti per la solita partita di calcio della domenica, e allora niente, mi inventai di dover andare in bagno e essendo dalla finestra a piano terra scappai fuori, andai all'oratorio a giocare a calcio. Senti, però la cosa che più mi colpiva era il fatto che tuo padre ti abbia solo detto che facevi schifo a giocare a calcio. Praticamente sì, e come ti ho scritto avrei preferito, non so, prendere un ceffone o qualcos'altro. Quanti anni hai adesso, Enea? Adesso vado per i 30. Vai per i 30, questa cosa succedeva quando? Nel 90, 8 anni. Enea, grazie mille, in bocca al lupo. Niente, ciao, buona giornata. Ciao. Marco mi scrive: disobbedire, che gran bella parola. La prima cosa che mi viene in mente quando disobbedì al mister, si parla sempre di calcio, che mi fece entrare tra il primo e il secondo tempo di una partita dei giovanissimi. Tante, troppe raccomandazioni, 15 minuti di chiacchiere, i miei sì, ok, d'accordo, ok, ho capito, d'accordo. Appena entrato in campo facevo completamente l'opposto come era stato chiesto, sbandai tutti, compagni e avversari. Risultata, partita recuperata e vinta. Sì, disobbedire ha un senso. Andiamo a sentire da Laura di Modena se disobbedire ha un senso. Pronto Laura? Ciao, sono Laura, chiamo da Modena. Perfetto, e quindi sei esattamente te che cercavo, Laura. Ok, allora, ovviamente sarò molto vaga per ovvi motivi, io sono un medico, sì, e mi sono opposta a un mio collega scrivendo anche diciamo nero su bianco quello che pensavo delle sue indicazioni riguardo a una paziente quasi novantenne in condizioni pressoché terminali, plurioperata eccetera, e quindi insomma per me l'intervento era decisamente futile, infatti mi hanno dato ragione. Era una cosa che tutti pensavano, nessuno aveva il coraggio di dire. Essendo stata trattata molto male io da questo collega, in modo assolutamente gratuito, io ho messo nero su bianco questa cosa, e la cosa ha creato molto scalpore, perché nessuno aveva mai fatto un atto del genere. Cioè, quindi scusami, Laura, tu esattamente che tipo di medico sei? Preferirei, cioè, visto che... Ok, ok, va bene, va bene. Evitare. Però fondamentalmente tu avevi la possibilità di dire di no a questo, a questa operazione. Sì, alla fine la persona è stata operata, cioè, nonostante, però io ho detto quello che ne pensavo, ho scritto meglio quello che ne pensavo. E l'hai scritto per chi, perdonami, chi erano i referenti? Scrivendo la mia consulenza in relazione all'intervento. Ma questa cosa la leggeva, l'avrebbe letta chi? I parenti della persona oppure i capi? Ah, ok, quindi era, diciamo, è stata una disobbedienza abbastanza ragionata e anche chiarita agli occhi di tutti. Soprattutto non se ne poteva più, insomma, di certe intemperanze di questo collega chirurgo nei confronti dei colleghi della sua stessa specialità e delle altre specialità. Ma, però scusami, no, quindi non era una questione di ribellarsi al collega, era di ribellarsi a quello che voleva fare. Insomma, di dire basta certi atteggiamenti veramente da... così, insomma, da deliri di onnipotenza. Dove ti trovi, Laura? Perché sento una eco fortissima. Adesso sono in un androne, diciamo, forse per quello che senti l'eco. Sì. Adesso forse dovrebbe andare un pochino meglio. Ma sei in ospedale? No, assolutamente. Ah, ok. Quanti anni hai? Da quanto fai il medico? Io ho 45 anni, lo faccio da 15 anni. Senti, e questa è accaduta una sola volta, questa cosa? Cioè ti è capitato spesso di avere a che fare con situazioni... Allora, perché molto spesso certe situazioni magari si cerca di venirsi incontro, comunque di ragionare, di evitare certe intemperanze, però quando è troppo, insomma. Insomma, quindi mi stai dicendo che è successo quella volta lì? Sì, quella volta lì è stata eclatante perché, ripeto, la cosa è finita nero su bianco. Okay. Di solito si cerca di, come dire, fra colleghi di ragionare un attimo. Quella volta lì ti dico, io non ne potevo più e credo di averne comunque guadagnato per quanto riguarda la mia dignità personale, sicuramente autostima. Ecco. Ok, Laura, ti ringrazio moltissimo. Prego. Ciao, ciao. Buona giornata, grazie. Alessandro mi scrive una stessa cosa che mi scrivono in molti. Grandi disobbedienze non mi ricordo di averne mai fatte. Sono sempre stato politically correct, ma non so se ne ho raccolto il giusto compenso o se forse è servito. Prima Antonella mi ha scritto: ho compiuto un atto di lesa maestà verso il mio capo. Pronto, Antonella? Sì, ciao Matteo. Ciao, che cosa intendi per un atto di... Brava, anch'io sono qui. Che cosa intendi per un atto di lesa maestà nei confronti del mio capo? Ma era un'associazione culturale che si occupava di progetti teatrali e c'era solo il capo che poteva dire che progetti dovevano essere, che intento culturale doveva esserci. Sì. E ad un certo punto io ho osato dire che no, che si poteva fare altro, e ho aperto un altro spazio, un'altra associazione mia con questa proposta. E quello che più ha dato fastidio e che ha fatto sì che io perdessi il lavoro è stato che non si poteva pensare con la stessa testa del re. Cioè nessuno di noi valeva tanto quanto, e quindi... Com'è andata a finire, Antonella? Faccio lo stesso mestiere ma per conto mio, senza più un padrone. E quindi sei un'organizzatrice teatrale? Sono un'organizzatrice teatrale con una formula probabilmente poco usata in Italia, quella da libera professionista a partita IVA. Cioè, quindi tu lavori per diverse compagnie, per diversi teatri? O compagnie o spazi culturali o teatri, sì. Dimmi uno spettacolo che hai in giro in questo periodo. In questo momento c'è uno spettacolo, te lo dico? Ti prego. Si chiama Cave nel territorio del Nord-Est, ha a che fare con tutto quello che è stato escavato, ci sono dei comuni nel Trevigiano. Che ma sono scusami, stati ma è teatro civile? Questo è teatro civile, sì. Okay. Poi invece ho uno spettacolo per bambini che si chiama Due principesse e tre patate lesse, che è un po' ricalca le storie sulle veline, ma per bambine. Senti, come va? Come va il periodo? Questo periodo non è un granché, no, per il teatro? Ma molti dicono di no, devo dire che lavorare da soli ha il privilegio che ci si adatta più facilmente, si trovano delle strade. E poi il teatro per i bambini alla fine funziona sempre, due cavoli, due patate, com'era? Scusa il titolo? Antonella? Mi sa che Antonella è andata, forse semplicemente si era rotta le palle. La ringrazio, ringrazio quelli che sono al telefono e che non riesco a sentire, e voglio chiudere con un racconto che ha a che fare con la disobbedienza e ha a che fare anche un pochettino con la paura. Avevo 17 anni, ero a Santiago del Cile con mio padre per lavoro. Lo accompagnavo per una fiera, restammo lì 15-20 giorni. In quell'occasione conoscemmo ovviamente tante persone, e tra questi molti italiani. Uno di loro era particolarmente simpatico, passavamo tanto tempo assieme e così ebbe modo di raccontarmi di lui, della sua vita e logicamente della sua situazione sentimentale. Manco a dirlo, non si sentiva particolarmente inibito dal fatto di essere sposato. Insomma, la cosa andava avanti, credo che mio padre qualche sospetto ce l'avesse, visto che mi vietò categoricamente di vederlo. Ma a 17 anni si fa sicuramente di tutto tranne che dar retta ai propri genitori. Quindi una mattina racconto una gran balla a mio padre e gli dico che me ne vado a fare due passi in centro. E invece l'incontro amoroso con il mio pseudo spasimante. Ti lascio solo immaginare cosa pensasse di fare lui nella tranquillità del boschetto dove mi aveva dato appuntamento. Anche tu che vai in un boschetto! Insomma, tutta la mia baldanza si è risolta in una rocambolesca fuga lungo i sentieri del parco alla ricerca di un taxi. Ero terrorizzata, quello mi seguiva, io di spagnolo non sapevo un accidente. Comunque alla fine un taxi l'ho trovato, lui ha smesso di inseguirmi e sono tornata da mio padre. Mi è stato utile quel momento di disobbedienza, sono cresciuta, lì, all'istante. Sei il primo al quale racconto questa storia, nemmeno mio marito lo sa. Lara. No, Lara forse non dovevo dirlo a questo punto. Beh, però non dico il nome, il cognome, e quindi chi ha orecchie per non intendere non intenda. Grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni, a Paolino Corleoni e a Stefano D'Andrea. C'è il weekend di mezzo, ci sentiamo lunedì, perché oggi non lo so. No, oggi lo so, ma domani io sono qui e voi dove siete?